24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Bentrovati da Roberta Pellegatta a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. È in corso a Bruxelles il Consiglio europeo. La Germania è disposta a un'apertura sulla questione degli eurobond, ma soltanto se ci sarà uno zar europeo a vigilare sui conti pubblici dei 16 paesi dell'euro. Lo ha detto il ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble in un'intervista concessa a The Wall Street Journal, salvo poi smentire che vi sia stato alcun cambiamento di linea sulla posizione tedesca. Da Bruxelles, Sergio Nava. L'attesissimo summit europeo vive ancora fasi di pretattica, la partita non è ancora entrata nel vivo con i leader che fino a poco fa si trovavano impegnati a discutere il nodo apparentemente più semplice, quello del piano per la crescita, un piano da 130 miliardi tra le misure l'aumento di capitale per la BEI, una riallocazione dei fondi strutturali e il varo di project bonds. Nella bozza di conclusioni si mette nero su bianco la necessità di una roadmap per una maggiore integrazione delle politiche economiche e monetarie, una questione che vede una maggioranza di paesi d'accordo, almeno a livello di principio. Negli ultimi minuti è anche emersa una proposta di mediazione finlandese che prevederebbe l'emissione di bond nazionali garantiti da collaterali anziché dei veri e propri eurobond. Bond garantiti dai fondi di salvataggio europei IFSF e ISM. Gli stati vulnerabili, secondo il premier finlandese Katainen, potrebbero emettere covered bond garantiti da asset pubblici o entrate, con i due fondi pronti a intervenire per facilitare le emissioni. Anche il presidente dell'Europarlamento, il socialdemocratico tedesco Schulz, ha a malincuore abbandonato l'idea degli eurobond di fronte all'evidenza del Nein della cancelliera Angela Merkel. Sentiamo Schulz. Sicher keinen weiteren Sinn macht. Schulz ha aggiunto: sulla crisi dei debiti sovrani servono decisioni oggi, si può utilizzare il fondo salva stati permanente con la licenza bancaria o altri strumenti come quelli proposti da Mario Monti, e Schulz ha appoggiato anche l'ipotesi di uno scudo anti-spread. La giornata è stata segnata dal giallo dell'intervista al ministro delle finanze tedesco Schäuble, che sembrava aprire agli eurobond e all'ipotesi proprio di uno scudo anti-spread, intervista poi di fatto smentita. Prima l'unione di bilancio ha ribadito Berlino, e tra le poche novità la riconferma del premier Luxemburgo Borghese Juncker alla guida dell'Eurogruppo, che dovrebbe avvenire domani, nonostante l'annuncio un mese e mezzo fa delle sue dimissioni. Grazie a Sergio Nava, che sulle parole di Schäuble a Wall Street Journal ha chiesto un parere a Elmar Brok, europarlamentare della CDU e presidente della Commissione Esteri dell'Europarlamento. Wolfgang Schäuble chiede una maggiore integrazione europea, chiede un'unione politica. Questo è l'obiettivo. Se riusciamo ad approfondire l'integrazione europea, allora possiamo anche pensare agli eurobond. Tutto dipende dai controlli reciproci e dalla solidarietà tra paesi. Più profondi sono i controlli, maggiore può essere l'assistenza reciproca. Ma occorrono condizioni più forti, come ha detto Schäuble, controlli più forti sui bilanci nazionali. Non sono d'accordo sulla lentezza dell'Europa. Stiamo ratificando il Fiscal Compact. La BCE è intervenuta iniettando liquidità alle banche. Anche per quanto riguarda lo scudo anti-spread, invece, non lo vedo come un compito di cui si debba occupare ora la Banca Centrale Europea. Non penso che ci saranno decisioni oggi sugli eurobond. Non possono essere introdotti senza modifiche dei trattati, che avranno bisogno di almeno 3 anni. Cosa mi aspetto dal vertice? Mi aspetto il varo di un pacchetto per la crescita e magari anche un'unione bancaria. Basterà ai mercati? Sì, se ciascun paese metterà a posto i propri conti. Dobbiamo dare il messaggio che l'Europa va avanti, che si sviluppa e approfondisce la propria integrazione. Il Consiglio europeo in corso ha provocato un'estrema volatilità sui mercati europei. Borse ad alta tensione nel primo giorno del summit europeo di Bruxelles, da cui ci si attendono risposte importanti per frenare il contagio della crisi economica e finanziaria. Dopo una seduta di alti e bassi, sono state paradossalmente Milano e Madrid, spesso nel mirino degli investitori, le uniche a chiudere in rialzo. Piazza Affari ha guadagnato lo 0,67% nel FTSE MIB, trascinata da UniCredit, che continua a sfruttare l'effetto Pamplona. L'annuncio del fondo londinese, che ha superato il 5% nella partecipazione in UniCredit, continua a mettere le ali al titolo della banca, che ha guadagnato il 3,8%, con il mercato che scommette su un ritorno di interesse da parte di altri operatori esteri. Tonfo invece per Alsaldo STS, meno 5,7% in chiusura. La controllata di Finmeccanica paga il pessimismo di alcune case d'affari sul medio periodo in ragione di minori investimenti pubblici nelle infrastrutture e trasporti. Da Radio Corp e Radio 24, Andrea Fontana. Un vertice, quello di ieri e oggi a Bruxelles, con molte attese dunque, ma non è certo la prima volta che l'Europa si presenta a questo genere di appuntamenti, dai quali spesso è uscito poco, troppo poco. L'estate 2008 la ricorderanno tutti. C'è un prima, dove tutto andava bene, e c'è un dopo, il dopo fallimento Lehman Brothers, che ha trascinato lentamente tutti giù.

L'Europa punta al biologico e dal 1 luglio sui prodotti bio dovrà apparire il nuovo logo europeo, un'eurofoglia formata da 12 stelle bianche su fondo verde brillante, con al centro una cometa che i cittadini dell'Unione Europea hanno scelto tra 3.500 proposte. Sarà infatti operativa dalla prossima settimana la decisione di rendere obbligatorio il logo UE su tutti gli alimenti biologici preconfezionati che sono stati prodotti in Europa, resta invece facoltativo per quelli sfusi e importati. Ed è tutto per questa edizione di 24 ore in Europa. Grazie per l'ascolto, grazie a Filippo Reggi in regia. Un saluto da Roberta Pellegatta. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.